A bordo campo di Dario Ricci. Eh sì, ci eravamo lasciati così, era il 20 dicembre del 2009, pochi mesi fa, e con questa musica ska di sottofondo e con una promessa, con Roberto Bruzzone, che sarebbe tornato qui a bordo campo per raccontarci l'ennesima sua impresa, la scalata della Aconcagua. 6.962 metri, la montagna più alta delle Ande, delle Americhe, un'ennesima sfida per Roberto e per la sua gamba in spalla. Beh Roberto, allora che effetto fa il mondo visto dalla Aconcagua? Tanto buongiorno a tutti. Il mondo visto da là è interessante, anche perché ci sei arrivato, quindi non proprio in cima, diciamolo subito, così almeno tutti lo sanno. Siamo arrivati a 6.030 metri, che comunque per me è già un buon risultato, perché sono già contento, perché comunque poi alla fine non è tanto il risultato sportivo nel mio caso, anche se comunque fa piacere, però è quello che trasmette la mia impresa sportiva, no? Quindi senza rischiare troppo abbiamo deciso di fermarci un po' prima. Eh sì, perché vale la pena ricordarlo ai nostri ascoltatori, non c'è solo la fatica della scalata, la preparazione tecnica, l'emozione di arrivare su una delle cime più importanti ed ardue del mondo, c'è ad appesantire l'ascesa di Roberto anche una gamba che spesso entra nel tuo zaino, no? Sì, quella di scorta come la ruota. Eh sì, ricordiamo un po' la tua vicenda. Sì, io nel 2000, nell'aprile del 2000 ho fatto un incidente in moto abbastanza grave, dopodiché dopo i primi soccorsi si pensava non fosse più di tanto alla vista, perché comunque avevo tutta la gamba rotta, compreso il piede, però i primi accertamenti sembravano abbastanza positivi, no? Tutto sommato. E invece alla fine purtroppo non si sono accorti che avevo l'arteria femorale recisa completamente, e lì sono iniziati i problemi, perché poi una volta che se ne sono accorti era ormai tardi, hanno fatto l'intervento, il devio sull'arteria, è andato bene, tiene ancora oggi benissimo. Però era passato troppo tempo perché i tessuti si potessero riprendere. Quindi una situazione che ti ha portato a perdere la gamba destra, e per questo oggi quella gamba di scorta diventa essenziale in queste due imprese sportive, no? Perché si sale con una protesi, ma può esserci una rottura, un guasto meccanico, certo, di qualsiasi tipo, e quindi gambe in spalla e si sale verso il tetto del mondo. Tra l'altro non era certo questa la tua prima impresa, perché ricordiamo rapidissimamente due ascese del Gran Paradiso, il cammino di Santiago di Compostela, la conquista del Kilimangiaro, insomma sempre alla ricerca di una sfida. Perché? Cosa vuoi dimostrarci, Roberto? Ma guarda, tutto è iniziato per una sfida personale, penso che sia normale, perché comunque io dovevo riuscire a rendermi conto cosa potevo fare in queste situazioni. Tutto questo per capire anche se potevo tornare a fare un lavoro normale. Io ho sempre lavorato in fabbrica e dovevo rendermi conto, esagerando, tra virgolette, arrivare subito al limite e vedere come mi comportavo. Alla fine, andando sempre più avanti, il limite si spostava sempre oltre, no? Quindi non ci sono mai arrivato a quel punto, però sono riuscito a capire cosa potevo e non potevo fare. Anche perché, tra l'altro, lo sport era sempre stata una tua grande passione, no? La box, l'atletica, sia prima che dopo l'incidente. Sì, sì, l'ho sempre fatto. Infatti, la prima cosa che ho fatto quando ho messo la prima protesi è stato salire su un ring di pugilato per far fare allenamento ai pugili che dovevano combattere nella mia vecchia palestra. E qui c'è stata la svolta psicologica più che altro, perché mi sono reso conto che ero più bravo di prima. Quindi cioè, è stata una cosa talmente tanto strana, forse più per me che per quelli che mi vedevano da fuori. Allora lì ho realizzato, ho detto aspetta un attimo, cerchiamo di fare qualcosa proprio di sportivo come facevo prima, non solo provare. E allora ho contattato un mio amico che è tuttora mio grande amico, compagno di viaggi e preparatore atletico, Alessio Alfier. E lui mi ha detto: va bene, iniziamo a fare atletica. E così abbiamo iniziato. Poi a un certo punto, da natura mia, ho detto: oh, io stare sempre su una pista di gomma non ce la faccio. Facciamo anche qualcos'altro, magari una cosa in più. E lui mi ha detto: vabbè, proviamo ad andare in montagna, visto che fai già qualche gita. E mi ha portato a 4.000 metri subito. Beh, insomma, il salto è stato Io considerevole. spaventatissimo da questa cosa, perché comunque, cioè, avevo la protesi addosso da qualche mese, non ti dico i dolori, sia in allenamento che quando abbiamo fatto la prima volta al Gran Paradiso, ero terrorizzato. Però quando poi sono tornato, sul tragitto del ritorno, ho detto: io in montagna non ci vado mai più, perché sentivo dei dolori allucinanti. Poi però, fatta una, quando ti passa il male, dicevo: vabbè, proviamo di nuovo. E allora Cioè, abbiamo poi dice cominciato. se vado a 4.000, vado a 4.500, Ma sì, ti poi una volta ritrovi. vai in lungo, una volta vai in alto e ci siamo cimentati in queste cose. Poi sono diventate hanno acquisito nel tempo un discorso più concreto, più serio e molto più importante dello sport in sé. Infatti, perché in quello zaino, oltre a quella protesi di scorta, ora c'è anche un'associazione, no? Che cerca spazio, cerca di cambiare mentalità e rispetto alla quale questi risultati sportivi sono un corollario importante, ma non certo il sugo di tutta la storia. Sì, infatti la nostra associazione, che si chiama Naturabile, è una onlus, si occupa principalmente proprio di trasmettere, di sensibilizzare le persone sul discorso disabilità, che comunque mi sono accorto che è limitato parecchio nelle persone. Perché inizialmente, intanto l'associazione è nata proprio durante il Cammino di Santiago, quindi durante uno dei nostri viaggi. Quando abbiamo capito cosa si poteva veramente fare, tipo 800 km a piedi, è una cosa che in tanti non ce la fanno a fare con due gambe sane, no? Quindi lì mi sono accorto che comunque si poteva proprio fare di tutto e trasmettere questa cosa alle persone che non ci credono. Cioè, tantissime persone sono a letto nella mia stessa situazione, giustamente gli è crollato il mondo addosso e non riescono a riprendersi perché le cose non le sanno. Io me le sono inventate, quindi è importantissimo secondo noi riuscire a dire alle persone: alzati dal letto che puoi fare tutto quello che vuoi. Senti, quanto ti brucia? So che tu sei anche un agonista, perché ogni vero sportivo vuole raggiungere i suoi obiettivi, vuole vincere le proprie sfide, vuole battere il suo avversario ed è giusto che nello sport ci sia questo istinto. Quanto ti brucia non essere arrivato su quella vetta, in cima a quella Aconcagua? Perché già un po' me l'hai confessato, eh? Ma guarda, ti dico la verità, l'agonismo c'è anche con se stessi, no? Perché per me è nato così. All'inizio ce l'avevo già di più, il senso proprio, sai, di disagio, di dire: cavolo, non sono arrivato in cima, oppure non ho fatto i chilometri che volevo, oppure in quanto tempo. Durante i miei viaggi, che oramai sono abbastanza, compresa l'Islanda, che comunque alla fine è andata male anche quella, però le cose devi provarle, no? Alla fine mi sono reso conto che se ti godi veramente quello che stai facendo, proprio il viaggio in sé, con un tono sportivo, perché io mi reputo, anche se a basso livello, uno sportivo, perché mi piace fare sport, però rimane comunque una cosa che è marginale, no? Se tu gareggi su una pista di atletica, è una cosa fine a se stessa. Quando tu fai un viaggio sulle Ande, che conosci persone e la situazione che ti unisce, tutti che si aiutano, rimane poi relativo il non sono arrivato in cima. Poi io ho la scusa buona, quindi quando torno giù dico: vabbè, tanto io sono senza una gamba, quindi ci sta, no? Impagabile Roberto, ci siamo conosciuti e tu ci avevi regalato della musica ska, no? L'abbiamo sentita all'inizio perché è una delle tue grandi passioni. La conosci questa? La paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo, il meraviglioso mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire è sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Costruire è sapere rinunciare alla perfezione, ci ricorda Niccolò Fabi. Ecco, devo dire, ti regaliamo noi di A Bordo Campo questa canzone, Roberto, perché questa imperfezione, non essere arrivato in cima, portarsi questa gamba nello zaino, ci sembra un valore che anche noi ci vogliamo mettere nel nostro zaino per continuare il nostro viaggio, perché la tua esperienza, le tue sfide ci ricordano che il viaggio è quasi più importante della meta, no? Ti ringraziamo di questo, per ricordarcelo sempre col tuo zaino in spalla, con la tua associazione, e allora, insomma, ti aspettiamo, è d'obbligo, alla prossima avventura. Sì, speriamo sia presto. Grazie a voi. E allora aspettiamo qui a Bordo Campo Roberto Bruzzone dopo la sua prossima impresa. A Bordo Campo. But France of this free kick. Florent Malouda trying to measure it. Richard Dunlastine. Oh, Henri! Oh, it's in the net. It's a goal. But there's the handball by Henri. And by the way, not just once, George, but twice. Oh, that's a handball, no question about it. Absolutely no question about it, and France have stolen the lead on aggregate. Era il 18 novembre del 2009, lo stadio Saint-Denis di Parigi, e Francia e Irlanda si giocavano la qualificazione ai campionati del mondo di Sudafrica 2010. Beh, come è andata a finire lo sappiamo tutti. Francia e Irlanda 1-1, francesi che avevano vinto a Dublino all'andata per 1-0, qualificati ai mondiali, l'Irlanda di Trapattoni a casa, ma un putiferio di polemiche per quella mano di Thierry Henry non vista dall'arbitro Hanson, che ha favorito il grande attaccante del Barcellona nel regalare poi a Gallas l'assist decisivo per il pareggio francese, pareggio che ha portato proprio i galletti ai mondiali di Sudafrica 2010 e che invece ha eliminato l'Irlanda, Irlanda che poi ha chiesto la ripetizione della partita, ha chiesto di essere ammessa al sorteggio della fase finale come 33esima partecipante, perché insomma lo sdegno per questo fallo di mano non visto è stato clamoroso. Niente da fare, Trapattoni a casa, Domenech, Thierry Henry ai mondiali, insomma un bel po' d'amarezza dalle parti di Dublino. Pochi giorni fa però, su un campo davvero particolare, c'è stata la rivincita, vero Billy Swan? L'Irlanda ha vinto stavolta. Sì, l'Irlanda ha vinto, ma io gioco per una squadra che si chiama Anglo-Celtic Colleges United. Ci sono giocatori, io sono l'unico irlandese infatti in questa squadra. Gli altri vengono dalla Scozia, anche c'è una maltese, ci sono due dal mio collegio qui, in collegio irlandese, e anche dal collegio inglese, quindi da questa parte del mondo diciamo, ma solo sono io l'unico irlandese. Insomma, ci è voluta una bella mano per prendersi la rivincita sui francesi per Billy Swan, prete diocesano dalla diocesi di Ferns in Irlanda. Perché? Perché stiamo parlando della Clericus Cup, insomma questa rappresentativa anglosassone, con Billy Swan, sacerdote, rappresentante anche dell'Irlanda, è riuscita finalmente a battere la rappresentativa francese ai calci di rigore. Insomma, credo che sia stata una bella amarezza. Thomas Weber, seminarista diocesano francese, tra gli sconfitti in questa occasione. Sì, per una volta è una sconfitta, e dobbiamo anche oggi imparare a perdere. Sì, Thomas, anche perché non è che ci avete fatto una bella figura come francesi, come sportivi, per quella mano di Henry. Appassionato di calcio, come l'hai vista quella mano galeotta? Come tifoso della nostra nazionale, come tutti gli altri, ero lieto di vedere questa qualificazione, ma quando ho visto il replay ho ben visto che l'abbiamo un po' rubato questa qualificazione, perché sicuramente non l'ha visto l'arbitro, e questo può succedere al calcio, ma per noi francesi è piuttosto una vergogna di qualificare così la nostra nazionale. Saresti stato, Thomas, favorevole a una ripetizione di quella sfida? In molti l'hanno chiesta a Dublino, ma non solo. Beh sì, ma lo conoscete purtroppo bene, il nostro presidente dell'UEFA, che è anche francese, che non si muove su questo punto della televisione durante le partite di calcio, dei replay, che è molto duro in questa parte, possiamo dire così. Sì, quello è sicuro. Billy Swan, allora, che aria si respirava e che si respira ancora oggi per le contee di Irlanda? Innanzitutto lo vedrete il mondiale in TV, perché fosse capitato a me neanche lo vedrei quello di Sudafrica. Insomma, una qualificazione mondiale portata via con questa manaccia. Sì, quando vedrò i mondiali sul TV in questa estate è impossibile per un irlandese non pensare di quello che è successo in novembre 2009, specialmente quando arrivano le partite in cui la Francia partecipa, perché noi irlandesi siamo rimasti molto delusi per quello che è successo, specialmente dopo aver giocato molto bene contro una squadra più forte in Europa. Ok, abbiamo perso a casa 1-0, ma abbiamo segnato 1-0 a Parigi e la partita stava andando molto bene con il nostro CT, Trapp, che ci ispirava e continua a ispirarci. E poi è successo questo. Per noi la partita è stata già rovinata quando è successo questo, perché è impossibile per i giocatori mantenere la concentrazione su questa partita dopo questo gol che non era giusta, che dopo la mano di Henry che tutti avevano visto, eccetto l'arbitro. La pelota va per Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el tres, intenta el cielo. Billy, in molti hanno parlato, non posso non farlo con voi, parlando con due religiosi, della mano di Dio, ricordando quella di Maradona a Messico dell'86. Certo. Mi ricordo anche quella mano di Dio 86, se non mi sbaglio, a Messico, anche quando ero piccolo, ma non so per niente da dove è venuto questo nome, la mano di Dio, perché era stato lo stesso Diego a dirla, dice, ma io non l'ho presa di mano, è stata la mano di Dio. Ecco, capitasse alla Clericus un gol così, sarebbe anche imbarazzante giustificarla come la mano di Dio, no Thomas? Penso che non dobbiamo giustificare una mano così, dobbiamo essere onesti. Se non siamo esempi durante questa Clericus Cup, allora non serve a niente questa coppa, questa competizione. Almeno l'esempio che possiamo dare è quello di essere esempi di rispetto reciproco, di fair play, di rispettare sempre le regole, di non discutere con l'arbitro. E per noi francesi dobbiamo veramente stare attenti a questo, ancora più con dopo questa vergogna di Thierry Henry. Ecco, molti hanno proprio tirato in ballo il fair play, no? La FIFA, la UEFA organizzano manifestazioni, incontri con i bambini nelle scuole per parlare del fair play. A questo punto ti chiedo, Thomas, ma ci sono due fair play? Quello della gente comune, che quindi in qualche modo cerca di comportarsi più o meno correttamente sul campo, e quello dei campioni, che invece in nome del risultato sacrificano tutto. Noi dal punto di vista etico questa mano di Henry ci ha creato qualche problema, Sì, si capisce molto bene che una competizione è una competizione, ma durante una competizione ci sono sempre le regole, se non le seguiamo, non serve a niente, perché se qualcuno non rispetta le regole, è un ladro. Ah, questo è sicuro. Billy Swan, il paradiso adesso comincia a essere in discussione per Thierry Henry, bisogna davvero marciare dritto per riscattare quel colpo di mano. Io ero e continuo di essere un tifoso grande di Arsenal, la mia squadra preferita, la squadra da Londra, e Thierry Henry era l'attaccante più bravo, ha segnato i più gol nella storia di Arsenal, quindi per me da piccolo Thierry Henry era un eroe, di meno adesso però dopo quello che è successo, perché sempre lo ammiravo, ma è difficile comprendere il suo comportamento, perché come io gioco come un attaccante e lui si è scusato dopo quello che è successo, perché non, lui ha detto al mondo: scusatemi, ma non ho inteso di controllare la pallone con la mano. Ma lui ha fatto due volte, e anche un attaccante non fa mai così se non lo intende. Nella sfida con i francesi nella Clericus Cup invece immagino tutt'altro clima, ma vi siete un po' presi anche in giro ricordando questo episodio. Che clima c'era in campo? Devo dire che ammiro tantissimo il reggimento dei francesi di fronte a questo, perché si sono scusati anche per questa partita, anche e la partita è stata giocata in un modo con un spirito di fraternità, di amicizia e anche di fair play. Non posso ricordare niente che è successo, niente fallo che posso dire è stato un atto di rancore o nient'altro. Meno male che almeno dalla Clericus Cup ci arriva un segnale di speranza, anche se, Thomas, ammettiamolo, io sento ancora nelle parole di Billy Swan, di padre Billy Swan, un po' di rancore per questo fatto. Ti chiedo, Thomas Weber, per chiudere, si sta facendo molto per cambiare l'immagine del calcio, no? Abbiamo visto anche questi tentativi, magari estemporanei, anche di mettere al bando le volgarità, le bestemmie, proprio anche nel calcio italiano, ricorrendo addirittura alla prova TV, situazione un po' difficile da risolvere, eccetera, eccetera. Credi che comunque quanto avvenuto in quella partita, in quel Francia-Irlanda, lascerà un segno e magari può anche essere stimolo a migliorare le cose, a migliorare i comportamenti in campo, a affermare un vero fair play alla fine? Io penso che tutto è possibile con questa competizione della Clericus Cup. Possiamo vedere delle cose veramente belle. Oggi iniziamo a mostrare anche alla gente che siamo uomini normali e che è possibile per noi di comportarsi bene e di rispettare le regole. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, come tutti i programmi di Radio 24, e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un grazie a Pietro Lacorte per la preziosa collaborazione in regia. Vi ricordo anche l'appuntamento di domenica prossima, sempre alle 14.30, ma sabato, come d'abitudine, alle 13.15, appuntamento con A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.